Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. E mentre sto per aprire la porta, mi accorgo di un foglio con una lista di nomi. È appeso in mezzo agli altri. È la convocazione dei giocatori per la selezione nazionale giovanile, categoria allievi. Ci sono due nomi evidenziati: Nicolò Casagrande, Rari Nantes Lavagna, e Marco Castagnasso. Quel Nicolò Casagrande sono io, portiere del Lavagna. Sono Nicolò Casagrande, sono di Bargone, un paese dell'entroterra del Levante Ligure, sono un ingegnere biomedico, non sono sposato né fidanzato, sono un appassionato di tango argentino e ultimamente ho scoperto il mondo della recitazione dove ho iniziato un corso da qualche mese. Lui pensava io tirassi a sinistra, io per questo guardavo a destra, ma torniamo a quel momento, io sto per tirare, no? Io guardo a destra, per tirare veramente a destra. A quel punto lui pensa, io tiro a sinistra, ma io guardo a destra, per tirare. Michele, ma se tu guardi a destra, io poi lo so che tiri a sinistra, è sempre così. Ma io volevo tirare veramente a destra. Ma io volevo tirare veramente a destra. È lì, è la chiave dello sconforto di Nanni Moretti. E io, Nanni, ti giuro che ti capisco. Perché quella è una specie di meccanismo che fa perno sulle credenze generali intorno a te, e tu dici, ma io li frego, perché loro pensano che sia così, e io li frego, e invece no, ti fregano sempre loro. La puntata di oggi non è dedicata all'essere fregati oppure no, o magari anche un po' sì, non è dedicata alla pallanuoto in generale, come in Palombella Rossa, anche se il racconto di Nicolò parte esattamente da lì. Parte da un episodio che gli è capitato qualche anno fa, prima che diventasse ingegnere biomedico, quando era il portiere di una squadra di pallanuoto del Levante, del Lavagna, insomma del Levante Ligure. No, Lavagna è... vabbè, del Lavagna, Liguria. E in quell'occasione lui venne convocato per la nazionale, ma succede qualcosa che alla fine fa saltare tutto. Quel qualcosa dipende semplicemente da una persona che non gli comunica quella convocazione. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma è Matteo Caccia, io sono qui. Perché capita delle volte che qualcuno che ci sta vicino, nel bene o nel male, faccia qualcosa che senza saperlo ci cambia la vita. Magari non ce la stravolge, però in qualche modo ci fa prendere una direzione. Un intervento che lui non lo sa, però ha degli effetti fondamentali sulla nostra vita. Parlo di qualcuno che magari ha abbandonato un oggetto che poi noi abbiamo trovato, ma anche un cantante che ha scritto una canzone che ci ha fatto innamorare, o un insegnante che ci ha fatto conoscere qualcosa che poi è diventata la nostra vita, ma anche in negativo, come ad esempio il caso di Nicolò, o ad esempio qualcuno che non ci ha comunicato un'informazione importante, no? E noi abbiamo perso un'occasione. Ecco, oggi si parla di loro, si parla di quelle persone che nel bene o nel male, senza saperlo, hanno cambiato la nostra vita. SMS sono 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui. Abbiamo anche il profilo su Twitter, l'hashtag è Voi siete qui, e lo trovate molto facilmente se smanettate su Twitter, e potete scrivere anche lì. Elisabetta, si chiamano Enrico e Giulia, quelle due persone. È stato un cambiamento radicale. Loro però non lo sanno, non hanno mai conosciuto me senza di loro. Non c'è nella vita stravolgimento più grande ed inconsapevole, è inutile dirlo, allo stesso tempo meraviglioso, di quello che porta con sé un figlio, anzi due. Ciao, spero di poterti ascoltare. Elisabetta. Non mi è proprio chiarissimo questo messaggio, ma credo abbia a che fare con una con dei figli, appunto, e con un'adozione, immagino. Arianna, 12 anni fa, uno scambio di persona. Cioè, la persona che voleva farmi conoscere una mia amica ebbe un impegno improvviso e si presentò quello che poi sarebbe diventato mio marito. Non so se questo ragazzo abbia mai saputo di come ha cambiato la mia vita, e lo ringrazio. 349-238-6666, professori invece, Luca, grazie alla mia professoressa di latino che mi diede 3 alla fine di quel primo anno di liceo scientifico, mi sono convinto che stavo sbagliando qualcosa. E così l'anno dopo mi sono iscritto al liceo artistico. Lì ho conosciuto mia moglie, lì ho capito di poter fare quello che faccio il pittore. Ancora un altro esempio, Carla. Anni fa un conoscente incontrato per caso, sempre per caso, ci parlò della vendita di un piccolo alloggio occupato a un ottimo prezzo.

proprio il fisico di un pallanuotista. Forse cioè sembra abbastanza smilzo, forse i portieri fanno meno fatica, ma non credo, è una boiata anche questa. E assomiglia, visto che ormai mi sono infilato in queste cose delle somiglianze, già l'altro giorno con Alberto l'ho fatto, Nicolò assomiglia a un attore che si chiama Ignazio Oliva. Andate a cercare Ignazio Oliva, che è un attore che sicuramente avete già visto. Ha fatto tra gli altri un film almeno 10 anni fa che si chiamava Io ballo da sola, e poi fa delle fiction, mi pare, adesso. E andate poi a vedere sul sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui, la foto di Nicolò, e c'è qualcosa. Poi, come l'altro giorno ho detto che Alberto assomigliava a Paniz, il deputato, e mi hanno scritto che era un imbecille. Un po' è vero, un po' secondo me continua ad assomigliarle. Matteo, Matteo, i rimpianti sono i veri acciacchi dell'età. Giulio da Treviso. Oggi veramente ma fioccano perle di saggezza. Grazie Giulio. E poi ancora, aspetta che sposto il microfono perché non ci arrivo a vedere fino a là. Su Facebook è arrivato questo messaggio. Vabbè, in piccolo sono successe tante cose, ma quella più grossa è questa. Amico di famiglia, cortinese, benestante, 40 anni e passa, fa chiedere a papà un... No, 40 anni fa. Chiede a papà un aiutino per non fare il militare. Per questo chiede e ottiene la cittadinanza americana. Poco dopo viene chiamato a partire per il Vietnam. Ciao Roberto. Questa la vedo in realtà un po' complicata, perché ottenere la cittadinanza negli Stati Uniti non è così semplice. Però io ci credo, un po' come la storia del postino e del tizio tedesco, per cui peraltro ringrazio Gerardo, che è il nostro ascoltatore legionario, che ci ascolta sempre, che dice: la storia che hai raccontato probabilmente è finta, perché nella legione straniera non si fa domanda, ci si presenta e basta. Cioè, non è che porti dei fogli di carta, i legionari sono così, arrivi e dici: salve, chi sei, non ci interessa, vieni. 349-238-6666, sempre Mirko. Io devo ringraziare tutti gli anziani della fabbrica in cui ho lavorato per 10 anni. Parlavano di lotte fatte per darci un futuro migliore, di non abbassare la testa per un centesimo in più, di capire che alla fine l'unione fa la forza e che se il presente adesso è bello, il futuro sicuramente dovrà, grazie al nostro sforzo, essere migliore. Beh, non finirò mai di ringraziarli. Ecco, questi erano tutti in positivo. Poi ce n'è uno che è in negativo, Francesco. E in questo messaggio di Francesco c'è anche un po' di astio, però lo capisco. Io devo maledire un intero paesino di montagna, o meglio, tutti i ragazzi e le ragazze di quel paesino, che si sono messi tra me e la mia cotta da 14enne. È andata così. L'anno dopo averla conosciuta, io la cercai, andando in ferie tra il 1 e Ferragosto, cioè tra il 1 e il 15 d'agosto. Mi dissero che lei in ferie non ci andava più. Lei in ferie là ci andò dal 16 al 30 di agosto, e le dissero che nessuno mi aveva visto e io non ero più tornato là. Eravamo piccoli, Facebook non esisteva, i cellulari nemmeno. Ci siamo ritrovati poche settimane fa, dopo 22 anni, grazie a un messaggio su Facebook. Grazie al signor Zuckerberg, a quel paese, i gelosi marci di quel paesino. Grazie Francesco. Poi è arrivata una mail invece, però questa è arrivata direttamente a Voi siete qui, @radio24.it, e mi piacciono veramente quando le mail sono azzeccate con l'argomento di oggi, come questa qui. Caro Matteo, mi chiamo Ivan e scrivo da una città del sud. L'argomento della puntata di oggi mi tocca da vicino, perché la mia vita è cambiata radicalmente qualche anno fa grazie a una persona che, senza saperlo, mi ha mostrato una cosa che io non avevo visto. Avevo 21 anni ed ero un seminarista. Da 7 avevo iniziato l'iter per prendere i voti e diventare sacerdote. Era una vocazione che sentivo sin dall'infanzia, passata all'oratorio, che poi avevo coltivato entrando in seminario, al liceo, fino alla teologia. Ero felice e andavo dritto verso il sacerdozio. Poi, una mattina d'estate, durante un campo con i ragazzi della parrocchia, ho incontrato Michela. Era la sorella di uno dei bambini che partecipavano al campo estivo. Aveva pochi anni meno di me e mi è parsa come un raggio di sole. Non è successo niente. Nessuna scena alla Azzo da Melk, il giovane frate del nome della rosa, né altri incontri romantici o discorsi al chiaro di luna. No, niente di tutto questo. Semplicemente però, quando l'ho conosciuta, ho sentito per un attimo cambiare il ritmo del battito del mio cuore. Una cosa lievissima, da nulla, come una leggera aritmia. Poi tutto è tornato normale. Le 2 settimane del campo estivo sono scivolate via e Michela non l'ho più vista. Ti confesso che non credo proprio di essermi innamorato di lei. È stato solo un momento in cui però tutto si è incrinato e ha preso una luce diversa. Ne parlai molto con il mio confessore e con i compagni di corso e di percorso. E alla fine decisi di uscire dal seminario. È stata una scelta difficile e dolorosa, ma ora, a distanza di 10 anni, sono felice. Ho una moglie, 2 figli e un lavoro che mi permette di vivere serenamente. Di lei so solo che è andata a vivere all'estero e spero stia bene. Voglio però approfittare di questo momento e del tuo programma che seguo sempre per ricordare quel momento e ringraziarla per avere, senza saperlo, indirizzato la mia vita verso il luogo a cui era destinata. Grazie ancora, Ivan. Dovevo andare con degli amici alla festa più cool di Vicenza. Giulio, già mi immagino come possa essere la festa più cool di Vicenza. Mica come la festa più cool di Verona, ad esempio, di Torino. All'ultimo nessuno di quegli amici viene e io decisi di uscire con altri amici e lì conobbi la mia ragazza e siamo insieme già da 4 anni. Questa, la morale è che in realtà gli amici di ripiego sono sempre meglio degli amici di prima linea. Ho 34 anni, dopo una vita calcistica giocata tra i dilettanti sono venuti a sapere di una trattativa mai conosciuta, a me sconosciuta insomma, di un interesse di una squadra professionistica nei miei confronti che voleva inserirmi nella loro rosa. A causa di un presidente egoista non ha voluto cedermi per una differenza di 500.000 lire tra domanda e offerta. Avevo 17 anni e poteva cambiare la mia vita. Probabilmente sì, quella roba lì dello sport professionistico è molto probabile. A proposito, ieri ho visto un film con Brad Pitt che però non è molto pubblicizzato, forse perché non c'è Angelina Jolie dall'altra parte seminuda, però è un bel film, si chiama L'arte di vincere, è la traduzione, la solita traduzione italiana per un titolo che invece è Moneyball, ed è la storia di vera, successa di recente nel 2001, di questo general manager di una squadra di seconda o terza fascia di baseball che scopre un metodo statistico per far vincere la propria squadra e per fare punti. In qualche modo parla delle occasioni mancate, anche se non c'entrano le persone che le occasioni te le fanno mancare. Però insomma, andatelo a vedere, è un bel film. Brad Pitt è molto bravo ed è scritto da uno dei migliori sceneggiatori che ci sono in giro in questo periodo, che è Aaron Sorkin, che è quello che ha scritto The Social Network, per dirvene uno, che è quello che ha scritto The West Wing, per dirvene un altro, che è uno dei telefilm più belli della storia dei telefilm. 349-238-6666. Ivan, che mi ha mandato la mail, quello che doveva farsi prete e non si è fatto prete, mi ha scritto anche che mi scriverà un racconto, e mi ha fatto riflettere questa cosa, mi scriverà un racconto perché gli è venuto in mente dopo aver fatto una riflessione riguardo ad un episodio. Cioè mi dice: non ho vissuto un episodio, ho fatto una riflessione, ma è successo il contrario. Ma tant'è. Grazie a Federico Bernocchi, Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Aina. La storia di oggi era la storia di Nicolò e parlava di persone che ti cambiano la vita. Quella di domani è la storia di Marina e ti parla della rabbia. Uscii con 60 sessantesimi, il massimo dei voti. Pensai che davanti a quel successo i miei genitori non avrebbero potuto negarmi l'università. Io volevo fare lingue e letterature straniere. E invece lo fecero. E come? Mi dissero: no Marina, non abbiamo soldi. Tua sorella si sposa e servono per lei. Vai a lavorare. Ecco, lì diventai ancora più arrabbiata.